sorprende come, come un vortice, ti sconvolge dentro. Cosa credi che lui sia? Un istinto, una pazzia. Brucia, brucia, la tua triste verità. Brucia nuda, chiedo ormai solo pietà. Troppe notti già passate a pensare a strane cose. Brucia, brucia. Brucia in te, dolce e fragile, senza ostacoli per te. Cosa aspetti a volar via? Un istinto, una pazzia. Brucia, brucia, la tua triste verità. Brucia nuda, chiedo ormai solo pietà. Troppe storie già passate e poi si resta a mani vuote. Brucia, brucia. Triste.